Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Si apre oggi a Trieste la settimana sociale dei cattolici, che vedrà nel pomeriggio il Presidente della Repubblica Mattarella e domenica Papa Francesco. Nessuna novità dalla riunione pomeridiana di ieri tra Confcommercio e Comune di Udine. Le posizioni sull'ordinanza di vendita di alcolici da sport rimangono distanti. Elena D'Orlando, Presidente della Commissione Paritetica Stato-Regioni, che si è insediata ieri, valuta le opportunità della nuova legge sull'autonomia differenziata. A Pordenone novità in campo assicurativo, saranno disponibili per la prima volta polizze in favore dei disabili. Anche i vacanzieri nel mirino dei soliti truffatori, una serie di consigli per non andare incontro a spiacevoli sorprese. Un rapporto dell'Ufficio Statistica della Regione conferma l'andamento positivo dell'economia in Friuli Venezia Giulia. Sono già quasi una ventina gli atleti del Friuli Venezia Giulia pronti a partire per le Olimpiadi di Parigi. Inizia oggi la preparazione dell'Udinese Calcio per il prossimo campionato. In arrivo il cileno Damian Pizarro, mentre è stato ceduto Wallace. Alle 7.19 di mercoledì 3 luglio, un cordiale buongiorno da Livia Liberatore e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Iniziamo come di consueto con il tempo, cielo coperto sulla regione, le temperature registrate alle 6, Trieste 20 gradi e 5 decimi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi e 5 decimi, Gorizia 19 gradi, Udine 18, Pordenone 16 gradi e mezzo, Piancavallo 9 gradi, Forno di Sopra Sappada 10, Tarvisio 9 gradi 5 decimi, Tolmezzo 13 gradi e mezzo. In quota sullo Zoncolan 6 gradi e mezzo, tornando sulla costa Grado 20 gradi 5 decimi, Lignano 18 con temperatura del mare a 26 gradi. Le previsioni per oggi sulla zona montana: cielo nuvoloso coperto con rovesci e temporali intermittenti durante tutta la giornata. Sulle altre zone cielo variabile con maggiore nuvolosità verso sera, quando saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Si apre oggi a Trieste la settimana sociale dei cattolici. In Piazza Unità la cerimonia di inaugurazione, qui interverrà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutta la città poi sarà coinvolta nell'evento, con gazebo e palchi montati per ospitare incontri ed eventi collaterali, fino all'arrivo del Papa, in programma domenica. Tutto è pronto, sistemati gli ultimi dettagli di sicurezza, con una riunione che si è tenuta in prefettura. A Trieste sta per aprirsi il sipario sulla settimana sociale dei cattolici. L'intervento inaugurale è del Presidente della Repubblica Mattarella, che torna in città, parlerà alle 17 dopo l'apertura. A chiudere sarà Papa Francesco con una messa in Piazza Unità domenica 7. L'edizione si intitola Al cuore della democrazia e punta, come spiegato nell'incontro di presentazione, a parlare di partecipazione e a metterla in pratica. È la Chiesa che si apre alle piazze. Elena Granata, vicepresidente del comitato scientifico e organizzatore. Si apre a chi vuole spontaneamente partecipare e soprattutto si apre alla pluralità dei punti di vista sul mondo, ecco, nella forma del dialogo, dell'ascolto, dell'ascolto mite, però della possibilità anche di esprimere punti di osservazione sul mondo che non sono coincidenti. 2 anni per l'organizzazione, decine di persone coinvolte. In città le parrocchie hanno mobilitato più di 300 volontari. I delegati da tutta Italia sono 900, di cui un terzo donne e un terzo giovani. Una scelta precisa, spiegano. Il risultato è un calendario fitto di incontri e dibattiti, come quelli dei villaggi delle buone pratiche, cioè le associazioni, radunate nei 110 gazebo in centro, e poi gli eventi delle piazze della democrazia su temi diversi. Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del comitato scientifico organizzativo. Noi abbiamo messo su 15 piazze e credo che su queste siano davvero importanti questioni come l'Europa, la concezione che abbiamo, la presenza dei cattolici, le riforme istituzionali, la riforma penitenziaria e poi ci sono questioni che riguardano ad esempio la rigenerazione di alcuni territori, quelli delle aree interne. Credo che questi, fra i tanti, forse vedranno una maggiore adesione. L'appello è chiaro: ispirare la partecipazione alla vita comune. Ognuno di noi può potere, può fare, può scegliere. E allora perché questo venir meno di questo desiderio nel quale ciascuno di noi si può sentire protagonista dei propri diritti? Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La riunione pomeridiana di ieri a Udine per stemperare la tensione tra Confcommercio e la giunta comunale dopo gli annunciati provvedimenti sulla vendita di alcolici da sporto non ha dato risultati apprezzabili. Le posizioni rimangono immutate, anche se continuano le interlocuzioni tra le parti. Il comune al momento non fa marcia indietro sull'ordinanza restrittiva sul consumo serale di alcolici in città e Confcommercio conferma il suo no alle forme di collaborazione, l'organizzazione di 4 eventi musicali per la Notte Bianca. Continuano però le trattative. Nel pomeriggio l'incontro tra Giovanni Pigani, responsabile pubblici esercizi dell'associazione di categoria, e l'assessore al commercio Venanzi. Venerdì scorso era stato il prefetto a auspicare una soluzione condivisa. Poco deve essersi mosso nel frattempo, da qui lo strappo. I commercianti sono preoccupati anche dalla perdita di incassi in un mese importante prima che la città si svuoti per le vacanze, critici sul fatto che i divieti non abbiano efficacia per gli esercizi che effettuano servizi a domicilio e per le considerazioni di sicurezza di chi dovrà negare una bevanda alcolica a un cliente magari alterato. In conferenza stampa il sindaco ha rimarcato che la richiesta di ordinanza sia arrivata dalle autorità di sicurezza durante il comitato ordine pubblico e che gli stessi autori dell'aggressione a Shinpei Tominaga abbiano dichiarato di essere stati annebbiati dall'alcol. Decisa da Confcommercio anche la serrata dei locali pubblici dalle 18 di lunedì 8 luglio. Proprio in quel giorno ci sarà il Consiglio Comunale straordinario sulla sicurezza e un corteo silenzioso per Tominaga promosso dal comitato Udine Sicura. Federico Malignani, presidente del comitato. Tutte le segnalazioni che abbiamo fatto e che riguardano zone che sono ancora a rischio, compreso Vicolo Brovedan, dove 2 mesi fa circa c'è stato un accoltellamento, noi l'avevamo segnalato da gennaio come una zona difficile, non ci hanno mai dato ascolto e quando abbiamo chiesto dell'esercito ci hanno detto che no, che non serve a niente, si sono quasi messi a ridere, e quindi ora lo schierano loro l'esercito. Io trovo che si agisca sempre dopo, quando è troppo tardi, ci vorrebbe un po' più di previsione dei problemi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche per il Friuli Venezia Giulia si aprono nuove prospettive di autonomia con la nuova legge sull'autonomia differenziata, ma la regione continuerà a mantenere le proprie specificità di regione a statuto speciale. Lo afferma Elena D'Orlando, la presidente della Commissione Paritetica Stato-Regione, che si è insediata ieri. L'autonomia differenziata rischia di annacquare la specialità di una regione come la nostra? No, secondo Elena D'Orlando, presidente della neo insediata Commissione Paritetica Stato-Regione e direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine. La riforma anzi potrebbe garantire anche al Friuli Venezia Giulia nuovi margini di autonomia. Le autonomie speciali, questa legge di fatto si applicherà nella parte in cui può consentire di conseguire delle forme più ampie di autonomia rispetto a quelle di cui già queste regioni godono. Quindi il messaggio è chiaro, questa legge per le regioni a statuto speciale non può significare meno autonomia, ma semmai può significare più autonomia, consentendo alle regioni a statuto speciale di utilizzare una, tra virgolette, scorciatoia per acquisire delle funzioni che non potrebbero acquisire attraverso le norme di attuazione dello statuto. Può succedere che tra le materie che adesso le regioni ordinarie possono conseguire ci siano materie che noi nel nostro statuto non abbiamo. E allora a quel punto è più vantaggioso anche per noi, piuttosto che ricorrere al complicatissimo procedimento di revisione dello statuto, utilizzare la, tra virgolette, scorciatoia. Tutto questo senza far venir meno le peculiarità della nostra regione. Lo sviluppo del potere estero, delle relazioni transfrontaliere in chiave di integrazione. E io vedo le regioni di confine come la nostra e i rapporti transfrontalieri che possono creare come quei gangli forti che tengono in piedi l'intero processo di integrazione, quindi l'intera architettura europea. Un altro tema riguarda poi il rapporto con i nostri enti locali. Questa rimane una peculiarità delle sole regioni a statuto speciale e questo è un marchio distintivo nostro ed è un marchio distintivo tra l'altro che la regione Friuli Venezia Giulia nel corso del tempo ha utilizzato in modo davvero vincente. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dati incoraggianti per l'economia della regione in arrivo con un report statistico diramato dall'apposito ufficio della regione. Il Friuli Venezia Giulia cresce, poco ma cresce. Secondo le statistiche diramate dall'apposito ufficio della regione, il prodotto interno lordo stimato nel 2023 è stato di 45.595 milioni di euro, con la componente principale costituita dai consumi delle famiglie, cresciuti dell'1,2%, anche se ovviamente inferiore all'inflazione, scesa comunque dall'8,2% al 5,4% nel corso del periodo trascorso tra dicembre 2022 e quello successivo. In espansione, come già stato sottolineato più volte, il mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione sotto il 5%, il più basso dal 2013. La forza lavoro è stata complessivamente di 545.000 persone, a cui vanno aggiunte le 25.000 in cerca di un'occupazione. Sempre secondo i dati rimane modesta la crescita. Il 2023 si è chiuso con una crescita del PIL a valori reali dello 0,7%, un dato che conferma il pieno recupero dei livelli di attività pre-crisi, ma che non è distante da quello nazionale. Per l'anno in corso la crescita delle attività economiche è prevista incrementare a un livello leggermente superiore, grazie in particolare alla ripresa della domanda estera. La crescita quest'anno si fermerà allo 0,8%, bloccata anche dal rallentamento del settore dell'edilizia. Numeri analoghi nel 2025 e nel 2026, con l'export che ricomincerà a salire significativamente soltanto tra 2 anni. A livello settoriale, il contributo più consistente alla crescita è stato fornito dai servizi, in cui la regione vanta un'elevata specializzazione, in particolare nelle attività finanziarie e assicurative, immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche. Anche nel prossimo biennio saranno il settore terziario e il turismo a trainare l'economia regionale e l'industria in senso stretto tornerà a crescere soltanto a partire dal 2025. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Da Pordenone novità in campo assicurativo. Ci saranno polizze a copertura dei rischi delle persone disabili. Un progetto innovativo per la copertura assicurativa delle persone disabili che parte da Pordenone e che è destinato a fare scuola, frutto di una lunga battaglia della locale Consulta delle associazioni delle persone con disabilità e loro famiglie, che ha permesso di ottenere una convenzione con una ventina di compagnie assicurative. Mario Dal Passo è vicepresidente della Consulta. Non esisteva nessuna compagnia di assicurazione che assicurava per le persone disabili. Sono 2 anni che faccio questa ricerca. Non era possibile inserire all'interno di un'assicurazione RCA un disabile di vario genere. Con questa assicurazione qua siamo inseriti dentro, in pratica, che assicura un disabile particolare per tantissimi problemi che possono capitare alla famiglia o al disabile. È stata una battaglia, guarda, non vi dico, ero talmente distrutto, ma grazie anche al Presidente ha detto dai, provaci, alla fine siamo riusciti. Adesso sono dal Veneto e anche dal Trentino che vogliono sapere di più di questa assicurazione, perché in Italia non esiste. L'iniziativa è stata illustrata in municipio a Pordenone con l'assessore regionale Riccardi e l'assessora comunale Cucci e un'ampia rete di soggetti interessati. Nell'occasione l'associazione Mutilati Invalidi Civili di Pordenone ha presentato le sue guide informative sui diritti delle persone con disabilità, con informazioni utili per ogni fascia di età, minori, adulti e ultra 67enni. Le guide sono disponibili anche online al sito web dell'azienda sanitaria. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Chiedono garanzie e tempistiche concrete da parte della regione e le dimissioni del direttore generale del Burlo Garofalo di Trieste che, secondo Will FPL e Nursind, che ieri hanno proclamato lo sciopero, non sta tutelando i propri dipendenti. Al centro della mobilitazione l'accordo sulle maggiorazioni delle indennità che la direzione ha sottoscritto con le altre sigle sindacali e che, a detta di Will e Nursind, penalizzano i dipendenti del Burlo. Quello di ieri è stato anche il primo sciopero virtuale a livello nazionale che prevede la partecipazione di dipendenti e anche ad esempio di quelli precettati. Vi hanno aderito 499 persone sostenute da oltre 3.000 cittadini. Il direttore generale del Burlo, Stefano Dorobolo, parla di un flop in una nota in cui spiega di aver trovato una soluzione che garantisce l'erogazione degli incentivi per giugno e luglio in attesa dell'ormai imminente finanziamento con l'assestamento del bilancio regionale, come da ampie rassicurazioni dei vertici politici. Duro attacco della regione ai vertici della Tirso di Muggia, la cui crisi è stata ieri al centro di un incontro che si è tenuto a Trieste tra regione, Friulia, Confindustria e sindacati. Tirso non solo è venuta meno agli obblighi contrattuali con Friulia e quindi anche con la regione, ma ha lasciato cadere nel vuoto le aperture finalizzate a cercare una soluzione alla situazione dell'azienda, hanno rimarcato gli assessori Rosolen e Bini. Secondo i sindacati, sull'azienda graverebbe una forte esposizione condizione con i fornitori di energia elettrica e una scarsa liquidità che starebbe creando difficoltà nel pagamento degli stipendi. Tra le ipotesi al vaglio della proprietà ci sarebbe la cessione di un impianto in Cina o un'operazione di leasing sui muri dello stabilimento di Muggia. Nel corso della riunione la presidente di Friuli, Federica Seganti, ha assicurato il massimo impegno per salvaguardare l'attività e l'occupazione, mentre il presidente di Confindustria, altro adriatico, Michele Agrusti, ha rilevato l'urgenza di conoscere le intenzioni della proprietà. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo per la Tutela del Lavoro di Venezia e dei militari del Comando Provinciale di Pordenone, hanno effettuato controlli in diversi cantieri edili della provincia di Pordenone. Sono stati disposti provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per motivi di sicurezza nei confronti di 4 ditte edili nei comuni di Aviano, Fiume Veneto, Zoppola e Morsano al Tagliamento. Tra le violazioni commesse, le più gravi evidenziano la mancata adozione di cautele a prevenire eventuali cadute dall'alto, l'assenza nel cantiere della documentazione a supporto delle misure preventive da mettere in atto a tutela della salute e della sicurezza e l'assenza di idonei sistemi per la messa a terra dei macchinari presenti in cantiere. Sono state contestate sanzioni amministrative e ammende per oltre 65.000 euro. Truffe e truffatori sempre in agguato anche quando si va in vacanza. I consigli per non cadere nella rete dei soliti malintenzionati. Tempo di vacanza ed ecco proliferare sulla rete nuove truffe. Ad essere più esposti a rischio sono i giovani che ne utilizzano di più gli strumenti digitali. Secondo il report 2023 dell'attività della Polizia Postale per la sicurezza cibernetica, l'anno scorso si è registrato un considerevole aumento dei tentativi di truffa online in Italia, con una crescita di questi reati del 6% dal 2022 al 2023. I casi più ricorrenti sono quelli di alloggi che non rispettano le qualità descritta dall'annuncio, oppure casa fantasma, oppure ancora immobili che risultano già occupati da altri. La maggior parte di chi si è trovato in queste situazioni si è accorto ancor prima di partire, mentre circa 550.000 vacanzieri hanno avuto l'amara sorpresa raggiungendo la località di vacanza. Sentiamo alcuni consigli per difendersi. Lina Sguassero, consumatori attivi. Diffidare dalle offerte troppo vantaggiose, tante volte effettivamente nascondono una truffa. In ogni caso è anche importante fare attenzione a quali sono le metodologie di pagamento che vengono richieste nel momento in cui si prenota la struttura, quindi meglio pagare attraverso le piattaforme, attraverso PayPal o delle carte di credito, evitare eventualmente bonifici o soprattutto ricariche alle prepagate, perché sono degli strumenti poco tracciabili e che in qualche modo non consentono un eventuale reclamo su questo tipo di pagamento. Potrebbe essere importante controllare le recensioni, seppur si debba stare attenti anche alla validità di questi strumenti e si consiglia di controllare su Google Maps o su internet l'esistenza della struttura. Un dato ancora più allarmante è che 4 vittime di truffe su 10 non hanno denunciato l'accaduto. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. A Palma Nova, cerimonia di consegna ieri di 3 automezzi speciali della Protezione Civile a favore delle comunità di Arta Terme, Moimacco e Tavagnacco per un investimento complessivo pari a 1,6 milioni di euro. Sono 3 autocarri MAN a 2 assi con trazione 6x4 da 26 tonnellate ciascuno a pieno carico, la cui base può essere intercambiabile con diverse dotazioni. Il cassone posteriore può infatti ospitare un container da 20 piedi o 2 da 10 piedi, oppure una cisterna d'acqua da 6.500 litri. Tutti e 3 i mezzi sono dotati di una gru posteriore con verricello che all'occorrenza si può trasformare in una piattaforma aerea con cestello, in grado di ospitare 2 operatori. La sezione regionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica invita alla riflessione su un piano regionale di governo del territorio che fissi una disciplina del contrasto al consumo di suolo, individui proposte concrete di rigenerazione territoriale. Se ne parlerà nel convegno dal titolo Contributi per una riforma regionale del governo del territorio alle 16 nella sede dell'Ordine degli Architetti di Udine. Così spiega il presidente della sezione regionale dell'Istituto, Sandro Fabro. 40 anni che si cerca di fare una nuova legge, un nuovo piano di governo del territorio, ancora questi strumenti non si sono fatti e quindi noi premiamo come urbanisti perché si facciano. e quindi chiediamo e proponiamo delle linee di lavoro, insomma, per questo nuovo piano di governo del territorio e per una legge di governo del territorio. Quindi qual è il vostro contributo di urbanisti e architetti? Il contributo consiste nell'indicare tre linee di lavoro per il piano di governo del territorio, che sono essenzialmente la rigenerazione territoriale, sottolineo territoriale, i servizi ecosistemici e un sistema di trasporto ferrotranviario che tenda a sostituire quello su gomma. Questo per quanto riguarda il piano. Per quanto riguarda la legge, noi riteniamo che tre siano i punti principali, e cioè una disciplina del contrasto al consumo di suolo, una disciplina della rigenerazione territoriale e una disciplina che riguardi anche i meccanismi partecipativi a tutti i livelli. Centrale quindi è il tema anche del consumo di suolo. Qui quali sono le vostre proposte? Le nostre proposte è che il consumo di suolo tenda a zero sostanzialmente. Ci vorranno alcuni decenni, ma ci si può arrivare, perché se si fissa il principio che tutte le nuove realizzazioni, tutte le nuove trasformazioni le facciamo sul territorio già costruito e già urbanizzato, si può arrivare piano piano a evitare di consumare altro suolo. A meno di un mese da Parigi 2024 sono quasi una ventina gli atleti del nostro territorio sicuri di partire per le prossime Olimpiadi. Il Friuli Venezia Giulia si conferma così come una regione con un'alta percentuale di atleti olimpici rispetto alla popolazione. Mancano 26 giorni alle Olimpiadi. Partire per Parigi sarà il sogno che si avvera per una ventina di atleti del Friuli Venezia Giulia. L'ultima a conquistare il pass, anche se l'ufficialità arriverà martedì 2 luglio, già da Carmassi, da Magnano in Riviera, 100 ostacoli. 11 gli atleti già presenti nel sito del CONI. Parliamo delle friulane della scherma, Mara Navarria e Giulia Rizzi, spada, e Michela Battiston, sciabola. Alice Gnatta, da Lignano, e Stefania Buttignon, da Monfalcone, nel canottaggio. Sicure di esserci anche le judoka Asia Tavano da Udine e Veronica Tognolo, triestina, ventenne. Seconda Olimpiade per Matteo Restivo, medico, ma anche campione nei 200 dorso. Nella squadra del Sette Rosa di pallanuoto ci saranno le triestine Lucrezia Liscergol e Veronica Gant. Un'altra partenza da Trieste è quella di Jana Germani, vela, e di Pordenone Alex Ranghieri, beach volley. Farà naturalmente parte della spedizione l'oro olimpico del ciclismo, Jonathan Milan. Se Little Basket di Pozzecco si qualificherà nel pre-olimpico, si aggiungerà anche un altro triestino, Stefano Tonut. Farà parte del gruppo azzurro a Parigi la campionessa vianese di breakdance Antilai Sandrini e lo Sovana Laura Di Toma, direttore tecnico della nazionale di judo. Daniele Rapisardo, udinese, sarà arbitro nella pallavolo. I tennis tavolisti Giada Rossi e Matteo Parenzana saranno invece protagonisti alle Paralimpiadi, così come Katia Aere e Michele Pittacolo, ciclismo. Sull'aereo per Parigi però c'è ancora qualche posto. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mancano quasi due mesi al prossimo campionato e l'Udinese mette mano alla squadra nell'ottica di un mai più come questa volta. In squadra arriverà Damian Pizzarro, da ieri ufficialmente nuovo giocatore dell'Udinese. L'attaccante cileno è stato acquistato a titolo definitivo dal Colo Colo ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2029. L'Udinese Calcio ha anche comunicato di aver raggiunto un accordo con il Cruzeiro per la cessione a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive di Wallace. Punta forte fisicamente, dotata di ottima qualità tecnica, Pizzarro è uno dei migliori prospetti del Sud America nel suo ruolo. Nasce il 28 marzo del 2005 a Santiago del Cile, cresce nel settore giovanile del Colo Colo, club di spicco del panorama calcistico cileno, nel quale si mette immediatamente in evidenza, tanto ad esordire in prima squadra già nel 2021. Il centrocampista brasiliano Wallace invece lascia il club bianconero dopo 5 stagioni e 165 presenze, condite da 3 gol segnati tra Serie A e Coppa Italia. Intanto è uscito il calendario dell'avvio della preparazione della squadra che inizia oggi agli ordini del nuovo allenatore Kostas Runjajić. Già oggi un gruppo di calciatori farà ritorno al Friuli per dei test medici e atletici e alcune sedute mirate sui campi del centro sportivo Dino Bruseschi. Damian Pizarro si è sottoposto nelle scorse settimane un intervento per la rimozione di una cisti ossea e inizierà la preparazione svolgendo un lavoro differenziato. La prima fase del lavoro si svolgerà in sede a Udine fino al 18 luglio, quando l'Udinese partirà per il ritiro che durerà fino al prossimo 31 luglio. Sarà per il secondo anno consecutivo Bad Kleinkirchen-Maid a ospitare lavori nella fase di preparazione. Nei prossimi giorni sarà comunicato anche il programma dei test amichevoli che è in via di definizione. La Triestina Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al football club Schaffhausen il diritto delle prestazioni sportive dell'attaccante belga-polacco Olaf Kozlowski, classe 2005, che si trasferisce nel club elvetico con la formula del prestito secco annuale secondo scadenze fissate al 30 giugno del 2025. Arrivato a Trieste nel luglio 2023, nella prima parte della scorsa stagione, ha collezionato 3 presenze in maglia labardata, prima del passaggio in prestito alla Pro Vercelli fino al termine del campionato. Terzo importante colpo di mercato per la Pallanuoto Trieste in vista del campionato di Serie 1 femminile 2024-25. La società ha infatti ingaggiato Gabriella Matafora Adams, attaccante di posizione 1 e 2. Ha sottoscritto un contratto annuale. Nativa di Barcellona, classe 2000, la sua carriera si è dipanata negli Stati Uniti. Vediamo i giornali di oggi. Barco alla piscina, tutti i vigili armati è il titolo di apertura del Piccolo di Trieste. Avranno tutti in dotazione pistole Glock i 9 agenti della polizia locale del quarto distretto che entreranno in servizio. Nella fotonotizia la statua di Verdi in piazza San Giovanni restaurata dal Rotary Club. Nella cronaca, richiamati in prima pagina, il caso dell'uomo precipitato dal terrazzo a piscina. La compagna è indagata per tentato omicidio. E poi i carabinieri avranno una stazione in Porto Vecchio vicino alla stazione dei treni e al Silos. Finiscono in vendita le scuole abbandonate sul confine di Muggia. Le prime pagine del giornale sono invece dedicate all'evento del giorno, l'arrivo di Mattarella, primo atto della settimana sociale dei cattolici. Seguono nelle altre pagine diversi approfondimenti sul programma della settimana dei prossimi giorni. La prima pagina del Messaggero Veneto di Udine, oggi in edicola, dedica l'apertura, con tanto di fotonotizia, a Gino Pozzo, che racconta l'udinese che verrà, sotto un titolo dedicato alla querela tra Comune e Confcommercio sull'ordinanza anti-alcol. A seguire tre richiami di cronaca con le vicende giudiziarie di chi ha colpito a morte con un pugno Tominaga. Ieri era protagonista in un altro processo a Treviso che è stato rinviato. C'è anche una foto per mostrare l'azione di un attivista che nella notte ha segnato di verde le vetrine di 140 negozi sfitti in città. Ultima la notizia che abbiamo trattato ieri sull'automobilista che ha percorso contromano 10 km di autostrada tra Udine Sud e Udine Nord, sfiorando la tragedia. A piedi pagina la foto con sedia made in Friuli preparata per domenica prossima per il Papa. Anche il Gazzettino nel suo inserto udinese ritaglia ampio spazio per i locali in rivolta contro l'ordinanza anti-alcol. La fotonotizia di centropagina invece è dedicata al turismo che causa il metro ha fatto segnare a giugno una frenata del 15%. Un richiamo poi affronta l'emergenza dei molti profughi in città senza un tetto, chiesto l'intervento urgente del sindaco De Toni. Spostiamoci sull'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. Tagli affitti, richieste record, è il titolo di apertura. A Monfalcone ha messo oltre 660 domande per ottenere i contributi per l'affitto, 2 milioni di euro i fondi necessari. Nella colonna della cronaca, ecco i 7 componenti dell'assemblea del GECT, il gruppo europeo di cooperazione territoriale, 2 i volti nuovi e ancora 2 nuovi parcheggi a pagamento, revocata la gara per le zone blu, saranno introdotti ticket nei park di via Manzoni e di via Boccaccio a Gorizia. Poi un lutto, è morto a 70 anni Giuliano Almerigogna, una vita per la musica, era giornalista e critico musicale. E poi da Monfalcone, nuove distanze, più pulizia, decoro, la stretta sul mercato del mercoledì in via Sant'Ambrogio. Cronaca nera in risalto nella prima pagina dell'inserto pordenonese del Gazzettino, con una lite al coltello tra minori in via Mazzini. Ieri pomeriggio, si legge nel sommario, alterco tra ragazzi che sostano sulla panchina, divisi da un adulto, uno a due ferite superficiali a braccio e collo, minacciati i testimoni che filmavano la scena con il telefono. Chi non è scappato ha collaborato con le forze dell'ordine. Meteo e commercio centropagina, con foto sul titolo «Il maltempo piega i negozi, pochi affari, scontri anticipati». Cronaca e sanità nelle colonne di sinistra, con un esposto per una diagnosi errata che avrebbe fatto tagliare un dito a un uomo di Fontanafredda, intervento scongiurato grazie ad un altro medico. A piedi pagina una lettera degli studenti che lamentano l'affollamento degli autobus loro dedicati, e poi un dossier sugli asili nido più cari stangati in arrivo in un paese su tre. Rispetto all'edizione udinese, il Messaggero Veneto di Pordenone si occupa dei ritardi dei progetti al Crodiaviano, con i 32 milioni di euro non sufficienti, l'assessore Riccardi promette interventi nell'assestamento di bilancio. Esce il primo volume di Divertissement, il libro fotografico che racconta i primi 30 anni di Area Area, la compagnia di danzatori friulani. Il volume è stato presentato nel corso del primo appuntamento della 6 giorni dell'Area Danza Urban Dance Festival, che animerà Udine fino al 6 luglio. L'idea è di far uscire ogni anno un nuovo libro per ricordare l'evoluzione della nostra poetica, hanno spiegato i direttori artistici Roberto Cocconi e Marta Bevilacqua. La 15ª edizione del festival porta in Friuli Venezia Giulia le eccellenze della danza contemporanea italiana. La storica galleria Tina Modotti si trasformerà in un luogo d'arte dove si terranno performance interattive a cura della compagnia. Area Danza terminerà con una milonga aperta a tutti, ospitata alla loggia del Lionello, a celebrazione delle ricchezze storico-architettoniche attraversate dal festival. Secondo appuntamento operistico lunedì scorso per il piccolo Opera Festival, dal Castello di Spessa ci si è spostati a Cormons all'interno del Teatro Comunale per la rappresentazione di una piccola opera di Luigi Cherubini, Il Giocatore, una farsa in musica per due personaggi scritta dal musicista fiorentino quando aveva 15 anni, più precisamente un intermezzo che veniva rappresentato tra gli atti delle opere serie più lunghe per alleggerire la tensione e accattivare il pubblico. Due personaggi in palcoscenico, Virginia Catinelli, che interpretava Serpilla, Dario Giorgele, nella parte di Baccocco. Si tratta di una coppia di coniugi con il marito dedito al vizio del gioco e la moglie che lo vuole lasciare. L'orchestra del festival era diretta da Eric Förster. Si replica oggi a Dobrovo, mentre ieri sera a Spessa, seconda rappresentazione delle Ville di Puccini. Il monumento a Giuseppe Verdi in piazza San Giovanni a Trieste, al restauro ultimato, è stato riconsegnato alla città. Alla cerimonia era presente il sindaco Roberto Di Piazza e l'assessore regionale Pierpaolo Roberti. L'intervento conservativo è stato promosso dal Rotary Club Trieste per celebrare il centenario della propria fondazione. Il monumento in memoria di Verdi, primo in Italia, opera dello scultore Alessandro Laforet, venne inaugurato il 27 gennaio del 1906, a 5 anni dalla scomparsa del compositore. Il 24 maggio del 1915, a seguito della dichiarazione di guerra all'Austria, l'opera venne ritenuta un simbolo dell'italianità e distrutta dagli stessi austriaci. Una nuova statua fu ricostruita, fusa con il bronzo ricavato anche dai cannoni trafugati in guerra agli austriaci, e riposizionata proprio il 24 maggio 1926. Un precedente intervento di restauro è datato 1996, offerto dalla Rotaria Fulvia Costantinides. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vo Favelin Dic si occupa dell'allarme zecche. Alle 11.20 in onda la prima puntata della nuova serie di Con le mani, con i piedi, con il cuore di e con Arianna Zani, Elena Commessati e Giacomo Plotner, con il progetto itinerante Creative Local Dance. Lancio poi per il cantiere Mulino, in laboratorio per bambini e adulti di autocostruzione e architettura partecipata, e da San Vito al Tagliamento gli appuntamenti extra della rassegna Piccolo Violino Magico. Si chiude con la striscia Lei è peggio di me, scambio ironico stradone sui massimi o minimi sistemi della vita. I programmi regionali tornano poi alle 13:29. Era questa l'ultima notizia, ha collaborato in redazione Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano e Tommaso Vinoni. Da Livia Liberatore e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.